We'll start our Dhamma talk, opening Dhamma talk for this part of the retreat with a well-known verse, a Dhammapada verse, namely 183. Savapapasa akaranam kusalasa upasampada sacheta pariyodapanam etam buddhana sasanam. Quindi cominceremo questo discorso introduttivo, il primo discorso di questa parte del ritiro, con un verso dal Dhammapada, molto noto, molto conosciuto, è il verso numero 183, che il Venerabile ha recitato in Pali, anche adesso ci tradurrà. And so, the meaning of this verse is not to do unwholesome deeds, to purify, to cultivate wholesomeness, to purify one's mind. This is the teaching of the Buddhas. So, not to perform unwholesomeness. Quindi non fare azioni non salutari. To cultivate what is wholesome. Coltivare ciò che è salutare. To purify one's mind. E purificare la mente. This is the teaching of the Buddha. Of the Buddhas. È l'insegnamento dei Buddha. Now, this Dhammapada verse 183, succinctly expresses the essence of the Buddha's teachings. Quindi questo verso del Dhammapada 183 esprime in maniera molto concisa l'essenza dell'insegnamento del Buddha. And certainly later on we shall explain some of the details. Un po' più in là spiegheremo alcuni dei dettagli. And certainly before doing this, allow me to give you some general information or some knowledge about the term Dhamma. What is meant by Dhamma? Ma prima di iniziare lasciate che vi dia qualche informazione rispetto a ciò che si intende per Dhamma, il significato di Dhamma. Now, one definition of this Pali term is as that which uplifts, that which upholds or guards, protects, supports. Allora, una traduzione di questo termine Pali è ciò che solleva, ciò che sostiene, ciò che tiene su, insomma, ciò che supporta. And furthermore, along the same line, that which forms a foundation and upholds. E più in là, un'altra definizione è ciò che costituisce il fondamento e che appunto trattiene o tiene su, sostiene. Then we have yet another way of characterizing the Buddha's teachings, namely as the liberation teachings. Poi c'è un altro modo per definire gli insegnamenti del Buddha e questo è sono quegli insegnamenti che liberano, liberatori. Now, the Dhamma then finds various manifestations, such as in the form of the training in virtue, the training in concentration, and the training in wisdom. Quindi il Dhamma poi o gli insegnamenti. Come dire, si esprimono, si manifestano in diverse forme. Una di queste è l'addestramento, il tirocinio, diciamo, riguardo alla virtù, riguardo alla concentrazione e alla saggezza. And certainly then part of the Dhamma is certainly also what is known as the four establishments of mindfulness. So, Chattaro Satipatthana in the Pali scriptural language. Quindi un altro modo per esprimere gli insegnamenti è quello che si riferisce ai quattro fondamenti della consapevolezza, del Satipatthana. And certainly then, part of the Dhamma is also the five hindrances. Parte del Dhamma sono anche i cinque ostacoli. And things such as mind and matter, known as nama and rupa in the Pali scriptural language. Poi ci sono anche delle altre cose più semplici, come per esempio mente e materia, che in Pali si chiamano nama e rupa. And then, as meditators will understand or find out very soon, part of Dhamma is also cause and effect. E poi un'altra cosa che fa parte sempre del Dhamma, che i meditanti scopriranno con l'andare del tempo, è la legge di causa-effetto. Then again, another aspect of the Dhamma are your three universal characteristics of anicca, dukkha and anatta, namely of impermanence, of unsatisfactoriness and the lack of a self, absence of a self. Un altro aspetto ancora del Dhamma sono le tre caratteristiche universali, in Pali anicca, dukkha e anatta, cioè l'impermanenza, l'insoddisfazione e l'assenza di un sé. And then there are many other very specific teachings, and certainly we simply don't have the time to mention all of them. Ci sono anche degli altri insegnamenti che sono molto specifici, ma non abbiamo il tempo per trattarli tutti. However, the seven enlightenment factors are important to give, as well as the goal, the ultimate goal of the practice, namely the realization of Nibbana. Vale la pena però ancora aggiungere i sette fattori dell'illuminazione e poi il fine ultimo della meditazione, che è l'ottenimento, il raggiungimento del Nibbana. And certainly with this, certainly then meditators usually understand intuitively from their own meditation practice the meaning, the deep meaning of the Four Noble Truths. E in questo modo, attraverso questo, i meditanti capiranno attraverso la loro propria esperienza il vero significato, il significato profondo delle quattro nobili verità. And for a meditator who has realized Nibbana, also the happiness of peace becomes a reality. Per chi ha realizzato il Nibbana, anche la felicità che viene con la pace diventa una realtà. Now, in terms of the character of the Dhamma, different things could be mentioned, and the first one worth mentioning is that the Dhamma is a norm which will shape our thinking, our views and our attitudes and actions. Per quanto riguarda il carattere del Dhamma, possiamo dire che il Dhamma è una norma che modella i nostri pensieri, il nostro modo di vedere le cose, i nostri atteggiamenti e la nostra e le nostre azioni. And so the Dhamma is out there, and at first we may not understand it very well, but as we keep on meditating, we keep making new discoveries, and with this then more and more aspects of the Dhamma become our own experience, and thus we start internalizing them. And in this way, the Dhamma is shaping our way of thinking and action and acting. Il Dhamma è lì fuori, inizialmente potremmo non conoscerlo molto bene, ma man mano che pratichiamo e attraverso la nostra stessa esperienza cominciamo a interiorizzare ciò che apprendiamo, e in questo modo il Dhamma stesso influenza i nostri modi o modella i nostri modi di pensare e le nostre azioni. No. Other characteristics of the Dhamma are that it is visible here and now. Un'altra caratteristica del Dhamma che è visibile qui e ora. And then furthermore, that the Buddha's Dhamma is there to be investigated and to be seen for oneself. E un'altra cosa è che il Dhamma del Buddha è lì ed è una cosa che va investigata, se così si può dire, e conosciuta per proprio conto, attraverso la propria esperienza. And so the Dhamma is not something that we have to believe by blind faith, but rather something that we have to find out ourselves, and we accept only as much as we've found for ourselves to be true. E quindi il Dhamma non è una cosa a cui crediamo in virtù di una fede cieca, ma è qualcosa che noi scopriamo per nostro conto e a cui noi crediamo fino al punto in cui possiamo verificarne la verità. And so, if we want to characterize the Dhamma just in one single word or expression, then we can say that it has one taste, namely the taste of freedom. E se vogliamo caratterizzare il Dhamma con una sola parola, con una sola semplice espressione, possiamo dire che il Dhamma ha un solo sapore, ed è il sapore della libertà. And another character of the Dhamma is that we have to work it out ourselves, and the Buddhas can only show us the way, but we have to walk this path ourselves. E un'altra caratteristica del Dhamma è quella che i Buddha possono indicarci la via, però siamo noi che dobbiamo percorrerla noi stessi, questa via, noi stessi dobbiamo in qualche modo rielaborarla. Now just to briefly elaborate on some of the qualities of the Dhamma. The Dhamma is also said to be well proclaimed. Swagata is the Pali expression for this. Swagata è una espressione Pali che indica il fatto che il Dhamma è ben proclamato. And so, well proclaimed means that it is good in the beginning, good in the middle, and good at the end. E con ben proclamato si intende che il Dhamma è buono all'inizio, è buono nel mezzo ed è buono alla fine. And it is said to be good in the beginning because just by listening to this Dhamma of peace and freedom, it can calm and suppress the hindrances that might arise in our mind. Il fatto che sia buono all'inizio significa che anche solo ascoltando questi insegnamenti che riguardano la pace e la libertà, questo ha il potere di in qualche modo ridurre i difetti mentali che sono presenti nelle nostre menti. Now, the Dhamma is said to be good in the middle because when we practice it, when we apply it, we then will gain the happiness of serenity, samatha sukha, as well as the happiness of insight, meditation practice. Il fatto che il Dhamma sia buono nel mezzo significa che attraverso la pratica del Dhamma noi abbiamo il beneficio della calma, della serenità, samatha sukha, e anche la felicità che deriva dalle intuizioni profonde o dagli insights. And then the Dhamma is said to be good in the end because if we keep practicing it, it will lead us to unshakable equipoise or equanimity. E il Dhamma è anche buono alla fine, e con questo si intende che se noi continuiamo a praticarlo raggiungeremo uno stato di perfetto equilibrio e equanimità. Now, earlier on, we said, you know, that the Dhamma is visible here and now. The meaning of this is, you know, that when one practices the Dhamma, one discovers, one learns about one's own mind. Prima abbiamo detto che il Dhamma è visibile qui e ora. Con questo si intende che attraverso l'apprendimento o conoscendo il Dhamma noi riusciamo a conoscere le nostre menti. So, when our mind is certainly full of greed, then we come to know this, and we also then come to know that this certainly leads to negative consequences for ourselves as well as certainly for others. Per esempio, se la mente è piena di avidità, noi questo arriviamo a riconoscerlo e riconosciamo anche il fatto che questa avidità porta a delle conseguenze negative per noi stessi e per gli altri. And certainly, through the practice of the Dhamma, we will also come to know that state of having given up the greed, and thus also understanding that we're not harming ourselves nor others out of greed. E attraverso la pratica del Dhamma arriveremo anche a un punto in cui riusciremo a abbandonare questa avidità e in questo modo capire che riusciamo a non fare del male né a noi stessi né agli altri. Likewise, for the other unwholesome mental states, we can see through the mindfulness practice when they are present, and we can also through the mindfulness practice sooner or later totally uproot those unwholesome mental states. E lo stesso vale per gli altri stati mentali non salutari. Attraverso la pratica della consapevolezza acquisiamo questa, questa capacità di riconoscere quando questi stati sono presenti nelle nostre menti e anche riusciamo a imparare i mezzi per completamente sradicare questi stati mentali negativi dalla mente. Now, earlier on, we mentioned one characteristic of the Dhamma, namely as inviting of inspection. Abbiamo parlato di una caratteristica del Dhamma precedentemente come quella che invita alla ispezione, alla ricerca, diciamo. And the meaning of this is that we investigate and then we find the Dhamma, and the inviting of inspection is also because of its purity. E quindi questo appunto è la pratica del Dhamma è un invito a investigare, a conoscere, e con questo si intende anche arrivare ad investigarlo nel senso della sua purezza. Now, earlier on we mentioned the Dhammapada, verse 183, and there it says not to perform any unwholesomeness, and this has certain many implications. Prima abbiamo menzionato il verso del Dhammapada 183, e lì si diceva che uno degli insegnamenti è quello di non praticare, diciamo, le cose non salutari, e questo ha delle implicazioni importanti. Now, a mental defilement is certainly considered to be the root for unwholesome deeds by body, by speech and by mind. Un difetto mentale considerato essere la base, la radice di azioni non salutari che sono appunto basate su l'avidità, l'odio. Then I missed the last part of what you said. So they're rooted in the Number 3. Ecco, e quindi queste azioni non salutari sono praticamente attivate attraverso la parola, il pensiero e l'azione. Now, the problem with those mental defilements, as mentioned by Sandra, namely greed, hatred, and delusion, and so many others, pride and conceit is also their wrong views. The problem with those is that they torment the mind, they afflict the mind, and they drag a being, a human being, down to a lower state. Il problema con questi difetti mentali, che sono appunto l'avidità, l'odio, l'illusione, ma anche per esempio la presunzione, l'orgoglio, eccetera, le visioni errate, è che in qualche modo affliggono la mente e trascinano la persona in uno stato inferiore. Now, when we don't meditate, we are not necessarily aware of this. All we might know is just that we feel unhappy, but we cannot specify why. When we don't meditate, yes. Quindi quando non meditiamo, noi non ne siamo consapevoli di questo, cioè ci rendiamo conto che c'è uno stato negativo, ma non capiamo il perché. However, when we do meditate, then gradually we learn to distinguish the different mental defilements. We know what is what, who is who, and then we also learn to understand how each and every of those mental defilements indeed creates a lot of suffering and indeed torments the mind. Quando iniziamo a meditare, invece riusciamo a riconoscere uno per uno questi difetti mentali e che cosa provocano, e vediamo che effettivamente sono delle afflizioni della mente e creano molta sofferenza. Now, when one meditates, after a while, after just a few days of observing both physical and mental objects, one gradually comes to see that there are certain mental objects which are unwholesome, and then there are certain mental objects or mental states which are wholesome. And so then one starts to make this difference, or one distinguishes this distinction between unwholesome and wholesome, and this distinction is really important. Dopo un po' che si medita, anche dopo solo qualche giorno, il meditante riesce a capire quali sono gli stati mentali positivi o salutari e quali sono quelli non salutari. Quindi essere in grado di fare questa distinzione è molto importante. Now, on the wholesome or wholesomeness is characterized as suddenly having thoughtless, happy results as its characteristic. Allora, gli stati mentali salutari hanno come loro caratteristica il fatto di essere senza nessuna pecca, diciamo, senza nessun difetto, e faultless and happy. E anche felici, stati felici, che portano felicità. And certainly the function of wholesome states is very simple, to destroy unwholesomeness. E la loro funzione è molto semplice, è quella di distruggere gli stati non salutari. Now, the practical aspect here is that, let's say, for a while you're not really mindful, you remember some unpleasant event from the recent past, and some anger arises. Allora, qui per fare un esempio pratico, immaginiamo che sorge un ricordo rispetto a un evento passato spiacevole, e allora in connessione sorge della rabbia. And then after a while you might realize, well, this anger is not very pleasant, and it's a form of suffering, and then you remember to be mindful again. sì, avevo dimenticato di dire, in uno stato di non consapevolezza questo succede. Poi uno si accorge appunto di questa rabbia che è sorta e si ricorda di tornare ad uno stato di consapevolezza. And certain mindfulness itself is a wholesome mental state, and in its presence, wholesome mental states have a chance to arise, and they then will dispel the unwholesome mental states. La consapevolezza che è essa stessa uno stato mentale salutare ha la capacità di far sorgere altri stati salutari e essi riusciranno a come dire, a eliminare, a far sparire gli stati mentali non salutari, in questo caso la rabbia. And certain wholesome mental states usually manifest as purity in the mind. Gli stati mentali salutari si manifestano come purezza nella mente. Now, what we need to do is certainly according to the Buddha's certain teachings as given in Dhammapada verse 183, we need to refrain or abstain from doing unwholesome deeds, and certainly then we need to take it one step further and cultivate or develop the opposite, namely wholesome mental states. Quindi se seguiamo gli insegnamenti del Buddha così come sono dati nel verso 183 del Dhammapada, allora dovremo astenerci dal fare azioni non salutari e dovremmo invece coltivare quegli stati mentali salutari. And then it says there to purify one's mind. The question is, how do we do this? E poi il terzo punto, il terzo insegnamento di purificare la mente. Allora la domanda è, come lo facciamo? And so the very simple answer to this is by training in virtue, by training in concentration, and training in wisdom. Allora la risposta a questa domanda è molto semplice, attraverso l'addestramento, il tirocinio, nella virtù, nella concentrazione e nella saggezza. And certainly this then will be explained certainly in a little while. E questo lo spiegheremo a breve. Now, in the Dhammapada there's yet another verse, namely 217, that certainly describes the results of such practice. C'è un altro verso importante del Dhammapada, 270, che spiega i risultati della pratica. And so there it says, he or she who is perfect in virtue and insight is established in the Dhamma. E lì si dice che colui o colei che è perfetta o perfetto nella virtù e nell'insight, cioè in queste intuizioni profonde, è in the Dhamma. Established in the Dhamma, right? Stabilizzato nel Dhamma. And so, such a person has realized the truths. Quindi questa persona ha realizzato le verità. And certainly fulfills his or her own duties. E quindi in qualche modo ha, come dire, ha rispettato, adempiuto, si dice così, i suoi doveri, ha eseguito, ha soddisfatto, diciamo. And is doveri. And as a result is loved by all men and women. E come risultato è amato, apprezzato da tutti gli uomini e le donne. Now, just briefly, the story that led Satna up to this Dhammapada verse. At the time of the Buddha, on a certain festival day, the Buddha and a group of his disciples went on alms round in Rajagaha. Allora, solo per raccontare la storia che sta dietro a questo verso del Dhammapada, allora, un giorno di festa, il Buddha con i suoi discepoli andò per fare la questua nel paese di Rajagaha. In northern India. Nel nord dell'India. Yes. And so then a group of boys passed by, and they were on their way to a garden and carrying baskets of cakes. Allora incontrarono un gruppo di ragazzi che stavano andando in un giardino e avevano dei cestini pieni di torte. And so, seeing this group of boys coming, the Buddha remarked to his fellow bhikkhus that they will pay homage to the Buddha but not make any offering, and instead make an offering to a monastic who will very soon follow them. So the Buddha predicted that they would do that? Yes. Allora il Buddha ha poi detto ai suoi monaci: questi ragazzi non offriranno i loro omaggi al Buddha, piuttosto lo faranno ad un altro monaco che seguirà. Era come una previsione. And indeed it happened just like this. And the Buddha and his disciples went on, and then those young boys they greeted the Buddha and his disciples and went on their way. E effettivamente è successo proprio così, cioè questi ragazzi hanno salutato il Buddha e i suoi discepoli, poi però hanno proseguito sulla loro strada. Then the Buddha and his disciples rested for a while under a tree. Poi il Buddha e i suoi discepoli hanno riposato per un certo periodo sotto un albero. And very soon the elder Kassapa, another disciple of the Buddha, also came along on arms round. And the boys crossed his path, immediately took a liking to him, and offered him some of the cakes that they were carrying in their baskets. Allora poco dopo arrivò un anziano discepolo del Buddha, e effettivamente i ragazzi che avevano attraversato la sua strada, è come se avessero, come dire, espresso un certo gradimento per questo monaco, e gli offrirono alcune delle loro torte. Now, Elder Kassapa was wise, and rather than accepting the offering himself, he directed the boys to go and offer the cakes to the Buddha and his disciples who were resting under or in the shade of a tree. Questo anziano monaco Kassapa, essendo un saggio, ha suggerito a questi ragazzi di non offrire a lui le torte, ma di andare ad offrirle al Buddha e ai suoi discepoli che stavano riposando sotto un albero. Later on, some of those certain disciples remarked out of certain jealousy or so, how come these boys make an offering to Elder Kassapa and not not immediately to the Buddha? E dopo un po', dopo questo episodio, alcuni discepoli chiesero al Buddha, si domandarono il motivo di questo comportamento di questi ragazzi, cioè perché avevano offerto le loro torte all'anziano Kassapa e non al Buddha. And it is to this group of bhikkhus or monks that the Buddha then replied that Elder Kassapa is like a son, and so, or anyone like Elder Kassapa who is endowed with the Dhamma, who is perfect in virtue, in insight, established in the Dhamma, has realized the truth and fulfilled his own duties, such a person will be loved by all men and women, and certainly including the deities. Ed è proprio in questa occasione, rispondendo a questo gruppo di monaci, che il Buddha pronunciò questo verso, cioè disse, riferendosi a questo anziano Kassapa, dicendo: la persona che è come dire, dotata di virtù e di insight, o meglio, perfetta nella virtù e negli insights, ed è ben stabilizzato nel Dhamma, questa persona quindi sarà apprezzata da tutti, da uomini, donne e anche dalle divinità. And so what we have is that mindfulness practice, or in more general terms, the practice of the Dhamma purifies our mind, purifies our body and our verbal conduct, and as a result, we are being appreciated by the devas and our fellow human beings. E quindi la morale, diciamo, di questa storia, comunque il significato di questo, è che se noi pratichiamo il Dhamma, pratichiamo la consapevolezza, allora il risultato sarà avere questa purezza nella mente, ma anche nel comportamento e nella parola, e in questo modo saremo amati sia dai Deva, cioè dalla divinità, che dai nostri, che dagli altri esseri umani. So, while on retreat here and certain beautiful Piande Chileji, please let us try to observe the precepts as meticulously as possible. Quindi, mentre siamo in ritiro qui, nella bellissima Piana dei Ciliegi, cerchiamo di rispettare i precetti nel modo più meticoloso possibile. And this then will mean that we will cultivate our, we will shape, we will cultivate our physical and verbal behavior, and as a result it becomes more and more refined. E in questo modo noi coltiveremo il nostro comportamento, sia a livello fisico che verbale, e in questo modo diventerà sempre più raffinato, si può dire, puro. And so rather than taking life or harming, tormenting living beings, we refrain from this, and to even take it one step further, we protect life. E quindi riguardo al primo precetto, non solo non prenderemo la vita ad altri esseri, toglieremo, scusate, vabbè, la vita ad altri esseri, ma né faremo del male ad alcun essere, ma andremo ancora al di là di questo e cercheremo anche di proteggere la vita. And out of loving kindness and compassion for others, we don't take others' property if it is not given to us. E quindi per una questione di gentilezza amorevole, di compassione e di rispetto nei confronti degli altri, noi non prenderemo ciò che non ci appartiene se non ci viene dato. And suddenly we take it even a step further, we protect others' property. E anche qui facciamo un passo in più e faremo lo sforzo di proteggere le proprietà degli altri. And knowing the destructive consequences of indulging in unlawful sexual relations, we refrain from those altogether while on retreat. E quindi, conoscendo le conseguenze negative di una condotta sessuale non corretta, qui in ritiro noi ci asteniamo da ogni attività sessuale. And Satya, then we also try to shape our verbal behavior, and rather than indulging in language which is incorrect, we are committed to speaking the truth at all times. E quindi per quanto riguarda la come dire, il comportamento verbale, qui cerchiamo di astenerci dalla parola non corretta e ci impegniamo a tutti i costi, in qualsiasi situazione, parlare, a dire la verità, a parlare in maniera sincera. And so taking intoxicating substances such as drinking alcohol or taking drugs will usually result in heedlessness. And certainly we're here to develop heedfulness. That's why we refrain from these intoxicating substances. Per quanto riguarda l'assumere sostanze intossicanti come l'alcol o le droghe, questi hanno l'effetto sulla mente di provocare una certa indolenza e pigrizia, e noi siamo qui per sviluppare proprio le qualità opposte, e quindi questo è il motivo per cui non assumiamo sostanze tossiche. And then, furthermore, we take only two meals a day, knowing very well that if we were to take a third meal or a last meal in the day, then this would lead to sleep, to drowsiness. Per quanto riguarda il sesto precetto, noi ci impegniamo a prendere solo due pasti al giorno, sapendo che un terzo pasto o un pasto nell'ultima parte della giornata provocherebbe uno stato di stanchezza, di sonnolenza. And certainly then, furthermore, we refrain from any kind of distraction such as singing, dancing and so on, as well as any form of enticing others through beautifying ourselves. E inoltre ci impegniamo a non distrarci con varie cose, per esempio la musica o le danze o gli spettacoli, eccetera. E inoltre evitiamo anche di sedurre le altre persone o i tentativi di seduzione attraverso quelle azioni che abbelliscono il nostro aspetto. And lastly, we sleep on beds that are not high and luxurious. We sit on chairs which too are not high and luxurious, as a way of not developing or not encouraging pride and conceit to arise. E come ultimo precetto ci impegniamo a dormire su letti non su letti alti e lussuosi, e sederci su sedie non alte e lussuose, e con questo si intende che non, come dire, non incoraggeremo il sorgere dell'orgoglio e della presunzione. Now, carefully observing the eight precepts is already an important step ahead, but when it comes to our goal of purifying the mind, it's not enough. Allora, già rispettare i precetti è un'ottima cosa, però quando vogliamo intraprendere questo lavoro della purificazione della mente, questo non è sufficiente. And so, by keeping the precepts, we can refine our physical conduct and our verbal conduct, but not necessarily our mental conduct. Mental defilements will still go on. Quindi, rispettando gli otto precetti, noi possiamo in qualche modo regolare, diciamo, i nostri comportamenti fisici attraverso il corpo, le nostre azioni e anche il nostro comportamento verbale, ma non necessariamente quello mentale. I difetti mentali potrebbero ancora sussistere. And it is certainly then, through the training in concentration, by being mindful of whatever predominant object arises, with this the mind will fall squarely onto the predominant object, and certainly then a few moments of concentration will arise. E quindi attraverso la concentrazione, o meglio la consapevolezza di ciò che accade momento dopo momento, che la mente sarà in grado di cadere, diciamo, in maniera diretta sull'oggetto primario, predominante, e in questo modo un po' per volta si svilupperà una forte concentrazione. And then, if we keep being mindful from moment to moment, then more and more moments of concentration will arise, and this will lead to a suppression of some of the mental defilements, namely known as the hindrances. E se riusciamo a mantenere questa consapevolezza continua, allora anche la concentrazione si svilupperà progressivamente e questo avrà l'effetto di reprimere alcuni di questi difetti mentali, quelli che sono chiamati i cinque ostacoli. Now, these five hindrances will be suppressed. However, it does not mean that they are totally removed from the mind yet. Quindi saranno soppressi, ma questo non significa che saranno ancora a questo punto eliminati completamente dalla mente. So, we have to take the training one step further, and so we need to then train in wisdom by carefully knowing the predominant nature of every object that has arisen. E quindi qui che dobbiamo sviluppare la saggezza per comprendere bene la natura, la caratteristica di qualunque oggetto che sorga. Now, the development of intuitive wisdom is really the most important aspect. That's the result of our meditation practice. Quindi questo sorgere della questa saggezza intuitiva è una cosa molto importante ed è proprio l'obiettivo della nostra pratica, della nostra meditazione. Since probably a number of you have had a longer journey to come here, and you might be somewhat tired, so I will give you only the gist of the meditation instructions which contribute, which lead to the arising of intuitive wisdom. Allora, siccome molti di voi hanno dovuto affrontare un lungo viaggio per venire qui e sarete stanchi, allora io vi do solo alcuni veloci istruzioni rispetto a come sviluppare questa saggezza intuitiva. Okay. So, the main instruction is kindly always label, observe and know the most predominant object that arises in the body or in the mind, starting with the observation of the rising and falling movement of the abdomen. Allora, la prima cosa è quella di etichettare, osservare e poi conoscere qualsiasi oggetto predominante che sorga nel corpo o nella mente, cominciando con i movimenti dell'alzarsi e abbassarsi dell'addome. So, the observation of the rising and falling movement is your or the rising and falling movement of the abdomen is your primary object, and then you take it from there. E quindi l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome è l'oggetto primario e poi uno va avanti da lì. So when you observe the rising and falling movement of the abdomen, then you want to know its qualities, its characteristics, its features. Quando osservate l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, allora vorrete conoscerne le caratteristiche, le qualità, le peculiarità. And so then, when let's say some thought arises, then you can take the thinking itself as an object, and quindi quando sorge invece un pensiero, allora voi potete prendere il pensiero stesso come un oggetto. And so then you label this as a thinking, you observe it in a non-reactive manner, and you try to know its nature. E quindi anche con questo voi lo etichettate, osservate, e lo osservate in una maniera non reattiva, e cercate di conoscerne la natura. And then once the thinking has subsided, then kindly go back to the observation of the rising and falling movement of the abdomen. quando il pensiero se n'è andato, allora delicatamente ritornate all'osservazione del movimento di alzarsi e abbassarsi dell'addome. And then, if sooner or later, some pain arises somewhere near the body, then focus your attention on that pain, label it accordingly as pain, then observe it in a non-reactive manner and try to know its nature. Potrebbe sorgere poi un dolore, allora anche in questo caso andate al dolore, etichettatelo mentalmente come dolore, cercate di osservarlo in maniera non reattiva e poi di conoscerlo nella sua vera natura. E poi tornate all'addome. And then, should you be experiencing a hearing process, or you hear some sound, then take the hearing process itself as an object, label that as hearing, and then observe it in a non-reactive manner and try to know its nature. Doveste notare un suono, per esempio, il processo dell'udire, allora prendete quel processo dell'udire come un oggetto da osservare, quindi di nuovo lo etichettate come udire, lo osservate in maniera non reattiva, lo conoscete nella sua natura. The same thing goes for the seeing process or any of the other sense door processes. Lo stesso vale per il processo del vedere o qualsiasi processo che avviene alla porta dei sensi. And so, then until tomorrow at 8 o'clock, be sure also to include general activities in your mindfulness, such as opening, closing of doors, and taking your food, and going to bed, getting out of bed, and so on and so forth. E da qui fino a domattina alle 8, quando ci saranno le istruzioni più precise, cercate di includere anche tutte le azioni che farete nella vostra meditazione, quindi cercate di fare con consapevolezza ogni azione, quindi dall'aprire le porte al prepararvi per andare a dormire, a riprendere la colazione, eccetera, eccetera. Then there's a few attitudes that are really worth cherishing during a retreat, and these are. Allora, ci sono alcuni atteggiamenti che vale la pena di incoraggiare durante un ritiro, e questi sono. Number one is certainly kind of make good use of your time. Time is really precious. Fate un buon uso del vostro tempo. Il tempo è davvero prezioso. And certainly in your meditation practice, or treat your meditation practice as the most valuable thing in your life, and therefore try to be as diligent as possible. Trattate la vostra pratica di meditazione come la cosa più preziosa della vostra vita e quindi siate più diligenti possibile. And certainly meditation is not always easy, and certainly therefore we need a lot of patience. La meditazione non è sempre facile e quindi abbiamo bisogno di molta pazienza. Then, since we're not alone on retreat, there are also others around, we need to be considerate of one another's needs. Non siamo soli in un ritiro, ci sono altre persone, quindi è necessario che prendiamo in considerazione anche i bisogni degli altri. And so, kindly refrain from any kind of activity that might possibly annoy the one or the other of your fellow meditators. Quindi, per favore, astenetevi da qualsiasi comportamento che potrebbe dar fastidio ai vostri compagni di meditazione. Then, when you meditate, please try to do so with a relaxed and yet alert state of mind. Quando meditate, cercate di farlo con uno stato mentale rilassato, ma allo stesso tempo vigile. And certainly then, also goodwill is necessary as well as a certain determination. È necessaria anche una una forza di volontà e determinazione. Now, There's certain activities while on retreat that are considered obstacles because they really interfere with one's development of intuitive insight. Ci sono alcune attività che sono considerate degli ostacoli durante la pratica perché appunto impediscono lo svilupparsi della conoscenza intuitiva. So the first one is to busy oneself with all sorts of unnecessary activities. La prima è quello di occuparsi di tante attività non necessarie. And then next obstacle is to be fond of talking. Il secondo ostacolo è quello di come dire, lasciarsi andare al piacere della chiacchiera, del parlare. And then to be fond of sleeping. Oppure di lasciarsi andare al sonno, al dormire. And then to seek the company of others and start socializing. Il cercare la compagnia di altri e cominciare a socializzare. And then a lack of sense restrained. E anche una mancanza di controllo sui sensi. So to express this positively, on retreat we want to restrain our senses as much as possible, our eyes, our ears, because a lack of restraint leads to a distraction of the mind. E quindi per metterlo in modo positivo, il fatto di limitare i sensi ci aiuta a non avere una mente distratta. And suddenly then we come here on retreat not to indulge in food, so immoderate eating is seen as another obstacle. Dunque veniamo a un ritiro non per lasciarci andare al piacere del cibo e quindi anche mangiare in maniera non moderata è considerato un ostacolo. No. Also, what might be helpful is to realize and recollect on occasion the preciousness of a retreat. It is not, or please do not take a retreat for granted. E quindi un'altra cosa su cui è utile riflettere è la preziosità di un ritiro. E quindi vi prego di non prendere il ritiro per scontato. And first of all, it may have been very difficult for you to set aside some time for this retreat, and then also it takes a meditation center, so a place that is geared towards offering retreats, and then it takes organizers, it takes cooks who do the cooking, and then it also takes teachers. Ci sono varie condizioni che hanno reso possibile questo ritiro. Intanto avete dovuto probabilmente voi stessi trovare un periodo da dedicare a questa pratica, a questo ritiro. Poi ci vogliono gli organizzatori, ci vuole un luogo così adatto e ci vogliono anche gli insegnanti che conducano il ritiro. Now let me conclude with another Dhammapada verse, namely 194, which expresses very nicely: happy is the arising of a Buddha. E concluderò con un altro verso dal Dhammapada, il 194, che dice: felice è la nascita di un Buddha. Yes. Happy is the exposition of the noble Dhamma. E felice è la esposizione, la spiegazione del nobile Dhamma. And happy is the harmony amongst the Sangha, namely those who practice the Dhamma and who've realized the Dhamma. Felice è l'armonia che c'è nel Sangha, cioè nelle persone che praticano il Dhamma, che hanno realizzato il Dhamma. And Satya Din, the last one is happy is the practice of those in harmony. E l'ultimo è felice è la pratica di coloro che sono in armonia. And Satya, so I wish you a happy and fruitful retreat here at PNDJG. Quindi io vi auguro un ritiro felice e fruttuoso qui a Pian dei Ciliegi. And that's it for enough. Basta per adesso. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you for translating. Mi piace il letto qui. Domani mattina l'hai detto. Ricordo domani mattina alle 8 qui per le espostioni. So tomorrow morning we'll have the usual instructions, meditation instructions in the hall. So those of you who have already heard instructions or want to continue meditating, you can do it upstairs in the small meditation hall. Okay, the old meditators can practice upstairs at 8 o'clock. No, alle 8 di domani mattina ci saranno le istruzioni del venerabile qui in sala. E poi ho detto in inglese a quelli che erano già qui che faranno la meditazione. Prima ci sarà la meditazione prima. Sì, sì, sì, sì. Tutto come da programma che è appeso fuori. L'unica differenza è che alle 8 ci sarà un momento qui in sala di istruzioni. Ok? Shall we make it optional? Yes, adesso stiamo decidendo per questa sera se farvi andare a dormire o farvi tornare in sala. So, the decision? Optional. At 8:45. So those of you who would still